Il governo è un posto di solito ogni volta, poi io in radio non è che ci sono sempre, io molte volte vi ascolto spessissimo perché sono qui facendo qualche riparazione, qualcosa al computer, facendo un po' di digitale, quindi vi sto ascoltando, mi fate compagnia e mi fa piacere sentirvi e poi ogni tanto mi sentite che entro, no? E quindi solo per quello. Poi come ha detto Lucariello ha ragione, sono io che metto portante, però Lucariello se la metto io la portante tranquillo che già te ne accorgi. Si conferma, soprattutto io me ne accorgo se lo metti tu, ma non è quello Fabri il discorso, è che siamo quattro gatti, ma porca miseria, quattro gatti che la sera ci riuniamo in questo canale per farci due chiacchiere e ogni sera c'è questo cretino, imbecille, che sia grande, sia piccolo, ti ripeto, perché chiaramente dietro il microfono si può nascondere chiunque, anche una donna, perché per pigiare il microfono e disturbare me l'hanno insegnato quando avevo 8 anni, capito? Quindi non è quello il problema, è che ci vuole una motivazione per poter fare una cosa. Se tu hai una motivazione valida perché lo stai facendo, allora dici, io metto la portante perché non voglio che Claudio Sparviero parli più nel canale 10. Va benissimo, non ci sono problemi, mi spiegherai la motivazione di persona, se ho sbagliato chiedo scusa, ma se non ho sbagliato ti rompo il culo, punto, su questo non ci sono dubbi, capito? Però basta, non puoi continuare ogni sera a infierire in questo canale senza che nessuno ti abbia fatto niente, perché io ho la coscienza pulita, non ho rotto le palle a nessuno, sono qui tutte le sere che mi faccio la mia chiacchierata, dico due cazzate, facciamo due prove, parliamo in generale e va bene. Gli altri la stessa cosa, la lamentela è di tutti, perché la deve finire, chiunque sia, non ha nessun, non c'è nessuna motivazione valida perché ci sia una persona su 10 che siamo che debba mettere la portante a quelli veri, perché disturba veramente, ma non solo qua, no, io non sento nessuno, un segnalone, è come dalla parte del Monte Basso e non sentono niente, nulla, a Luca Fippa gli arriva 9 più 50, è una cosa assurda, capisci? Quindi basta, o la finiamo, o siamo pazienza, basta, finito il discorso. Però quello che hai detto tu, e ti hai assunto la tua responsabilità nel dirlo, giustamente, va bene, per lui va bene, non solo per me, per tutti quelli del canale 10, va benissimo, non è lui, perfetto, allora ci metteremo in moto per cercarla questa portante, perché lì al Monte Alto non si discute, Fabri, non siamo ragazzini, non si discute. Sì, sono d'accordo, ti ripeto, non c'è nessun motivo e non c'è con nessuno, secondo me, questa persona, è solo per il fatto che è deficiente, punto, perché la mamma degli imbecilli è sempre incinta, sempre per il solito motivo, non c'è motivo, non ce l'ha né con te, né con me, né con Bombolo, né con Lucariello, né con nessuno, né con Gianni, né con Lucidi Dollaro, con nessuno, cioè è così, giusto per me, anzi, e sono convinto che se sono in ascolto sta godendo un bel, perché si sta parlando di lui e lui è contento, come i maniaci, ce li presenti, uguali. Frank. Avanti. Vai già, vai. Ciao Fabrizio, ciao Bombolo, sono rientrato, dai. Stavo appunto ascoltando il discorso. Io ho sempre detto che non si può mai fare il nome su una portante, perché le portanti si possono mettere in tante maniere, in mille modi, con diverse antenne, in macchina, eccetera, eccetera. Però ti dico, Fabri, che a me mi arriva oltre il 9.30, oltre il più del 9.30 la portante, quindi la zona è quella lì, sicuramente. Però potrebbe essere anche con un grosso lineare, chi lo dice questo qua? Che non è con un grosso lineare che copre una vasta zona, chi lo sa? Io sospetti ne ho avuto tanti, però non posso dire nulla, non posso esprimermi in questo senso qua, perché se non sei sicuro queste cose non le devi dire, perché poi magari butti fango su persone che non hanno colpa, però i pensieri me li sono fatti anch'io, dico la verità, del più 2 fa 4 sì, però ci sono mille maniere di mettere la portante e di far credere magari che quella persona, quando non lo è, magari ci sta giostrando su quello, far credere che sia Riccardino, quando poi magari portate magari con un grosso lineare o fa qualche altro intruso, capito? Bravo Gian, il tuo discorso fila di più, è certo che un dubbio ti viene, no? Perché inizi a fare, però è venuto anche quest'altro dubbio, che forse non è male nemmeno l'idea, forse è quella più giusta per il mio punto di vista. Però è anche giusto che un dubbio se lo mettano, come ha detto Bombolo, come ha detto Claudio, eccetera, eccetera. Io ho detto la mia e tu hai detto una cosa che tutto può essere. E quella persona ci sta godendo chissà quanto, però voglio dire, è che io non sono sempre qua, però il giorno che capita faccio un paio di prove io e qualcosa forse riesco anche a tirarla fuori un po' di più, capito? E poi come detto però si può cercare. Il problema è che quando vai a cercare queste persone qua non schiacci più il tatto e giri a vuoto alla fine. Non sappiamo bene come funziona la radio, dai. Capito già. Ecco, niente, Malacchini, non vi faccio più modulare ora. Ecco per me, dai, ci sentiamo. Ciao a te. Buonasera. Bianco per me che è pronta la cena, ci sentiamo dopo. Ciao a tu, ciao, buona carica, dai, avanti Fabio. Ciao a tu, buona carica, sto arrivando anche io, metti un piatto in più che vengo a mangiare. Allora mettere due, dai, se lo sto arrossendo prima anch'io. Mi sa che vedo una assaggio di salsicce, Dio. non sono pronto, ancora, l'ho messo ieri. Quando l'ho provato ieri con la mia infetta in furia, sono staccato perché avevo un altro attaccato. Te lo dico di persona. Sì, dimmi di persona, perché io giusto ho visto che cambiano bene, poi magari ci sentiamo e me lo dici, perché non so se hai fatto prova, perché qua non ho nessun apparecchio per fare le prove. Andare, già ci sentiamo telefonicamente. Sì Gianni, ma se hai cambiato radio? Ho cambiato il microfono, c'ho il Galaxy con la static. Non mi piace, troppo fine la modulazione, però vabbè, questi colori non si discutono. No, vabbè, l'ho messo così provvisoriamente, sto aspettando un turner, se me lo mandano, se lo mandi bruciato. Ho trovato un turner su internet, l'ho ordinato, l'ho tutto quanto, ho preso l'indirizzo e tutto, ma non si vede, mi ha detto che me lo mandava a pagare quando arrivava il corriere, mi ha detto vabbè mandamelo così e non c'è il problema, e invece ancora non è arrivato, sono arrivate quelle altre cose che sono secondarie. Comunque ho constatato stasera una cosa, sopra un 3009 il PL che ho comprato nuovo non ha vita e su altri baracchini ha vita, è una cosa allucinante. Te l'ho detto, come se sia difettoso dalla casa, non c'è problema. Già, ti faccio la foto di questo, te lo scarichi e te lo metti lì davanti alla radio, poi quando arriva... Fabri, è successo 2 mesi fa che c'era una portante, ma non come quella, no? Non come quella, da paura. Ok, siccome un giorno ho fatto una prova con lineare grosso e ho schiacciato la portante, proprio c'è Gianni che può dirlo, e arrivavo quasi a fondo scala, no, forse anche Tino c'era, era 9.40 da Tino, mi hanno incolpato che ero io, capito? Quindi, incolpato, Dio, mi sono arrivate dei messaggi, delle telefonate, alludendo che ero io, ma nel modo più assoluto. Quindi tante cose possono essere, Fabri, tante cose, però permetti di dire che alludere ad una cosa, alludere che domani mattina uno possa fare una cosa diversa da quella che ha fatto oggi, sono allusioni, quindi non è un reato, però fare nome e cognome allora non va bene. Qua ti posso garantire che sul 10 nessuno ha fatto nome e cognome, ok, va benissimo che tu ci hai detto questo che ci hai detto e noi apprezziamo quello che hai detto, però da oggi in poi noi dobbiamo metterci in testa tutti in generale che questo la deve finire, perché se non la finisce a costo di stare tutte le sere con la macchina da via Grazia dell'Edda alla punta alta di via Grazia dell'Edda, quindi dal basso all'alto tutta la sera, tu vedrai che io a lui lo sgamo. Tranquillo che lo tolgo da metà i piedi. Ecco, avanti, speriamo, speriamo. Avanti. Ciao a tutti, buonasera, Gianni, il profeta da questa parte. Avanti, Fabri. Ciao Gianni, ben sentito anche a te. Speriamo bene. Quattro gatti, e vabbè, invece un gatto solitario. Avanti, Tino. Allora, prima di tutto, Claudio, ciao, non ti ho salutato perché ho detto di spegnere le macchine, ma non l'avete fatto, quindi continuate pure, non conta più niente. Ciao Gianni. Ho già ti. Secondo me Gianni il profeta sta mettendo la portata. Io lo spegni il baracchino anche tu. Cazzo, il papi ho conosciuto. Cazzo, ma guarda, io c'ho un display, io c'ho un baracchino serio, mi. Cazzo, non lo so, portate, mi sono usciti i papi suoi sul display. Otti, cos'è che hai detto? Ho detto, quando sono entrata, io spegnete il baracchino, invece state continuando a parlare, allora fatelo. Ah, no, stiamo alla fortissimo come sempre, cosa dobbiamo spegnere? Abbiate il suo funzionamento di questi baracchini. Ciao Gianni il profeta, buonasera, ben sentito, ben ascoltato e ben entrato al canale 10. Vabbè, chiacchierato abbiamo chiacchierato stasera. La cosa, Fabri, che voglio aggiungere poi chiudo, è che è talmente furbo, perché quando ha saputo che Bruno Ragano era lì su al Monte Alto dove c'era la scuola, ha smesso di mettere la portante, capisci? Quindi come fai tu a non alludere che sia proprio in quel punto? Capito? Ecco perché ci siamo un po' tutti illusi e tutti hanno detto ciò che ho pensato io e hanno pensato anche gli altri. È lì il problema. Comunque, chiuso il discorso, tu vedrai che Gianni Bughe Mubiri con questo signore o signorino che sia, o donna che sia, non ce n'è problema. Gianni Bughe Mubiri, tranquillo che Gianni Bughe Mubiri. Speriamo bene, io cerco anche nell'altra maniera il mio pensiero di come la penso, che siamo talmente vecchi tutti quanti che quando si avvicina un giovane magari, e invece poi una cosa per giusto o sbagliato, non entro nei meriti, non mi interessa, e mi dispiace che si possa perdere, e saremo gli ultimi della stirpe, perché io ho due figli, nemmeno uno gli interessa di niente di quello che faccio io, e per quello, se ci sono giovani mi farebbe solo piacere, perché anche un domani magari quello che io faccio oggi per tutti quanti, magari un domani quando non ce la farò più ci seguo, mi piacerebbe che ci fosse qualcuno che viene a darmi una mano a me ad arrampicarsi a fare, capito, quello che sto facendo io da tutte le parti, da Olbia a Sassari e ad Alghero, sono una parte all'altra arrampicato come una scimmia, come un gatto, come un piedigatto, capito, sono sempre arrampicato e io so che non potrà durare per sempre, e spero che, e la speranza è che chissà qualche giovane un domani potrà darmi una mano, se Dio mi mantiene sino a vecchiaia, che io non ce la farò più, e invece mi sa tanto che questa cosa andrà a morire, perché giovani non ne sto vedendo, per quello vedo un giovane che si avvicina, non entra in merito, cosa fate, la colpa, non colpa, e vedo che mi sembra che si stia allontanando, e quindi questo a me può solo dispiacere, non, senza polemiche di chi possa essere le responsabilità, non sto entrando in quel merito, ce ne fossero altri 2, 3, 4, 5 così, ma purtroppo anche noi, io il primo, perché facendo anche capo, essendo anche presidente di un'associazione, sono il primo che non fa niente per promuovere, e per, tu dirai, con questo periodo di Covid non puoi fare niente, però a fare una manifestazione, girare per far capire anche nelle scuole e magari portare qualche giovane, quindi io sono il primo dei responsabili probabilmente, però è un dato di fatto che con noi queste apparecchiature credo che nella zona di Sassari andranno a morire, capito? Tutto qua. Ma su quello non ci piove, io ho staccato, lo sai benissimo, lo sapete tutti, non mi piace più la 27, quindi ho preso una mia decisione, mi ho assunto le mie responsabilità e va bene così, forse anche perché sto già iniziando la discesa e quindi è bene che me ne stia tranquillo e sereno senza fare tante cose alla grande. Però ti ripeto, noi non abbiamo modo di parlare al telefono, e tu lo sai, anche se sono passati tanti anni, te lo dico qua apertamente davanti a tutti, non ce ne ho, non ne ho peli nella lingua, però se io dovessi farmi due chiacchiere con te e spiegarti alcune cose, tu mi dici Claudio non può essere, non può essere, e io in quel tuo non può essere ti porto testimoni dove ti raccontano e si mettono davanti e ti dicono: Claudio ha perfettamente ragione, capito? Solo questo ti posso dire, inerente al discorso che avevamo prima, solo questo ti posso dire, perché io sono il primo e tu lo sai, come te, l'ho accettato tranquillamente, l'ho esultato in tutte le maniere, gli ho dato anche un paio di microfoni miei che me ne sono privato io, gli ho dato alcune dritte nella mia poca esperienza da CB e basta, non ho fatto altro. E poi ho avuto dei calci nel culo che non ti dico qua, ma se avremo modo di farci una chiacchierata di persona ti racconto. Vabbè, a prescindere, infatti ho detto, a prescindere ragione o ragione, cosa o non cosa, a prescindere, il mio era un discorso più in generale, il dispiacere che queste apparecchiature moriranno con noi, punto, a prescindere che non ci sarà più nessuno, e tra uno dei maggiori responsabili al momento credo che sono io, che non ho tempo né voglia di stare lì a cercare di poi andare a pubblicitare per portare qualche giovane, tutto qua. Fare radio non vuol dire solo essere radioamatori, ma anche chi va in 27, chi fa ascolto, chi fa GPSVL, tutto è fare radio, ognuno lo fa come gli piace farlo, ma comunque sempre fare radio, non c'è nessuna differenza se non poca differenza, c'è la passione sempre quella. Comunque dai, Babbo, rimaniamo a mattino, che tanto diventa, penso che l'abbiamo anche bello sviscerato questo discorso. Avanti Tino. Io sono ritornato. Sì, già mangiato hai. Io vi saluto tutti, dai, scusate ma mi hanno chiamato al telefono, se mi avete chiamato, dai. Buona serata, buon godino QSO e pace e bene a tutti. Eia. Ciao Gianni, buonanotte, tanto anche io due un paio di minuti e me ne vado, che domani mi devo alzare presto, ma non per quello, devo andare a sentirmi un po' di politica, a vedere se riescono a fare questo governo, perché hanno promesso una posizione, a me mi faranno ministro delle telecomunicazioni, magari mi chiamano, cacchio, e poi vi patenta a tutti al regalo però, Mi raccomando, un portaborse mi serve, via. Guardate, mi serve un portaborse anche. Arrivo Fabrizio, trovo una macchina. Ecco, ci speravo con questo governo che mi interpellava, invece non mi hanno interpellato, me l'aspettavo, me lo sentivo. Oh, quella vuole portare anche un'altra persona, non la fa portare? Porta, porta, cacchio, tutti gli amici miei ci portano, come ha fatto Di Maio, ci porto tutti gli amici miei, con stipendi da 100.000 euro in su, di meno niente, non ne voglio io gente così sottopagata. Non ne voglio gente qua. Con l'economia, a ne vedi, l'Unione Europea, un dizisci? Sì, no, te la regalo io. Sì, la regali tu, ma io se la voglio di mia personale, o eccetera. Col tuo nominativo non va bene, dai. Perché? No, puoi fare richiesta di cambio nominativo. Io ti ho la carta, poi ti arrangi, cosa? Già li voglio vedere questi che devono andare dagli esami attaccati al computer lì, guardando la faccia di quel guasto e rispondere alle domande. Esciu, che schifo che. Secondo me non serve a niente, una farsa, non so come si farà a darlo così l'esame. Comunque ti ho detto, se mi chiamano allora a fare il ministro delle telecomunicazioni, siete tutti convocati, tutti saremo sul tetto del Quirinale e ci mettiamo un bel traliccio con le antenne che girano sopra la testa del presidente. Ma signori, cosa volete che vi dica? Adesso mi preparo anche io a fare carica. Arturo, tu hai fatto un tocco e fuggi, tu sei, vai, mangi, ti inguzzi e poi rientra alla radio. Sono contento che sei così preso, perché anche noi, perlomeno, io da ragazzino non vedevo altro che la radio, quando andassi a mangiare, un morso ero già seduto nuovamente, cicù. Va bene, dai, adesso invece vado giù, prendo un ciombo, vedere se fa, se poi vediamo. No, aspetta, nella vita normale sono così, faccio 100 cose in un minuto. Dino, ti ricordo? Non è tanto bello 100 cose in un minuto, perché, sai, ci sono delle situazioni particolari che un minuto non basta. Dino, ti ricordo? Dimmi, che se dovesse parlare quella sedia e quello sgabello che avevi a fianco al letto, tante volte hai mangiato attaccato al baracchino. Questo io non sono consapevole, non è che me lo ricordo come se fosse oggi, anzi. sera con il corso che si faceva, con gli scherzi e tante altre cose, dai, era una cosa bella. E allora, che ci dimentichiamo anche di mettere la benzina nella macchina, nella moto? Quella era una scelta di vita. Perché non andava a piedi perché c'erano solo 5.000 lire di benzina e ci accompagnava uno all'altro, non rimanevamo a piedi. Vabbè, vedi, quelle sono cose che ti fanno pensare però, perché io lì ho riflettuto, ho detto se accompagno a te rimango a piedi io e non posso andare a lavorare, se invece giro da questa parte arrivo a casa e posso andare a lavorare, quindi ho dovuto lasciare a piedi a Capriva Celentano. Sì, sì, le lacrime mi infiammavano, vabbè, bei tempi, dai. Comunque Fabri, da parte mia, ti ripeto, il discorso è chiuso, a me non mi sentirai mai più dire è lì, è là, è qui, ah, lavoro da solo, assieme a quelli del gruppo, perché questo è importante, deve smetterla, ci deve lasciar parlare, ci deve lasciar divertire e basta, se poi vuole entrare oppure ha qualcosa con qualcuno, siamo qua, non c'è nessun problema, perché con me penso che non ce l'abbia, ce l'ha con tutti in generale, quindi spero che la cosa si risolva nel bene e non nel male, in caso contrario, ti ripeto, interruttore e via, la televisione, a me poco mi interessa, sono stufo, dopo 40 anni di radio sono stufo di stare a bisticciare con la gente, ho già capito tante altre cose, quindi me ne sto solidale, tranquillo, mi godo la pensione. Ti ripasso il cambio Fabrizio, dai, anch'io vi saluto, auguro buona cena a tutti, Anto, se ci sei ci facciamo due chiacchiere dopo, come sempre, se è possibile, altrimenti alle prossimine, avanti Fabrizio. Aspetta Fabio, non te ne andare che ti faccio vedere una cosa, vai, riprendi. Va bene, dai, appetito, adesso rimango anche io 2 secondi e poi me ne vado anche io a seguire un po' di politica, vai, che via. Avanti Tino. Eia, va bene, tieni presente, guardate questo segnale, questo che ho ora. Aspetta, vai. Guarda, una volta. Il radio, vabbè, cambio radio, però il segnale interessa. Ok, vai. Ecco qua, guarda un po', ha cambiato, c'è la radio che segnale? La radio più o meno è quella, il segnale è aumentato, la radio più o meno siamo lì. Ma è? Così è, dai. Questo è l'incremento che dà, aspetta che lo spengo. Vabbè, tieni presente che sono i watt. Sono da, credo da mezzo watt, l'hai fatta tu, non mi ricordo, mezzo watt, un watt, boh, di 5.500, così è normale e così è aiutato, eccolo qua, questo è lui. Sì, 8, adesso quando eri così hai fatto 8, poi forse 9, 9 e 20. Va bene. Se aumento a 6 va in saturazione, però a 5 va bene. Ma tutti quegli apparecchi, ne dovrebbe avere qualche altro, fanno tutti così, come ne sono entrati, quando proprio lo mandi, che poi io l'ho visto velocemente qua, cioè non aumenta niente, cioè poi anche 3-4, sono pochi watt quelli che aumentano qui, dopo i primi due scatti poi gli altri sono fesserie, sono pochi, a 5 va bene, un giorno che lo facciamo con un bel watt, come te lo faccio vedere, che poi sono fesserie gli scatti, infatti non ho capito, però è più che altro per gioco gliel'hanno fatto, però a 5 hai un aumento pazzesco qua, a te come lo vedi Bombolo? Anche qua, ciao, buonasera a tutti. Bene, come va lì, da quelle parti, da 0 a quanto ce n'è? Allora, da me hai fatto 7, 9 e poi 9 e 20. No, guarda, lasci mia. Allora, guarda un attimino, così è attaccato, no? Ecco qua, così è attaccato, quindi sono il watt dell'apparato. Questo lo posso aumentare. Però lo metto a 0, diciamo. Quindi così a 0 e così è attaccato. Allora io ti spiego come ti ascolto io qua, Allora, con 0 watt la radio non mi piace, penso un po' così, diciamo, è un segnale 9, quando agganci 9.20. Vabbè, così è agganciato, la radio è a 0, però la posso aumentare un pochino, guarda se ha cambiato qualche cosina. No, se tu la sganci e ci metti magari 2 o 3 watt, secondo me la radio è più bella. KK, dai, io vi devo lasciare. Ci sentiamo dopo, ciao Massimiliano, buonasera. Oh, ciao a tu, ciao Bombolo. Buonasera, vai, saluto anche Fabrizio, poi non so se c'è qualche un altro, sentito solo voi. Ciao, ben sentito anche a te. Sì, no, anche qui, passi da 8.9 a 9.20. Allora, va bene, dai. Ciao Antonio, ciao. Davvero, davvero, sì, ti ho muscolo, davvero. Ciao Massimiliano. Bugariello. Oh, ti hanno già dato ieri il segnale, più o meno come quello che ti ha dato Fabrizio, eh. Alla fine chiuso è quello il segnale. Sì, ma ho dovuto mettere le mani in pasta per fare il cablaggio, diciamo, cambiare da uno all'altro. Sì, no, anche quello là me l'ho bloccato, il nuovo l'ho fatto. Oh, se volete l'amicizia di Luca ogni tanto, perché tanto ci fa un profilo ogni 3x2. Mannaggia Facebook, io non mi interessa bene. Ciao Massimi, dai, che non mi hanno chiamato ancora, ma sono qua che mi stavo preparando per la cena, riprendi. Ciao, ciao Cla, saluto a te, saluto anche a Luca, poi ho staccato stasera perché quando non entrava l'acqua nella cassetta, mi ho smontato mezzo muro, l'ho dovuto smontare, non lasciare perdere. Vabbè, ok, avanti, tiro, vai, riprendi. Va bene, dai, cambio radio e poi così almeno rimetto un po' tutto a posto. Eia, va bene, cambia radio, cambia, già siamo qua. Ma scusa Massimiliano, ma dell'impianto nuovo che hai fatto giù, perché non avevi fatto la finestrella, il quadretto, dove c'era la rastrelliera lì? No, giù ho messo la cassetta zaino e quindi va bene. No, le mani di su. Capito, ho smantellato un po' la cassetta. E che dice, sai, il pulsantino, tipo quello del barba, per farti un esempio. Però va male qua a spiegare, allora un lavoro un po' più lungo. Grazie, grazie. E quindi niente, va. Quindi oltre che lo faccio di mestiere, di buttarmi giù tutto, anche a casa, a notte per saltello. Scusate, riprendo io che devo andare a prendere cosa da cantina e devo lasciare la radio. Beh, ci si riascolta. Vabbè, ti faccio un colpo di telefono magari anche domani, Ehi, a quando vuoi. Va bene, dai, anche io chiudo e vado a vedermi il telegiornale di Rai 2. Dai, un abbraccio a tutti e ci sentiamo. Io comunque molte volte non entro, ma già sono qui archi bugiando e già vi ascolto. Ciao, ciao Massimiliano e buonanotte a tutti, dai, ci sentiamo. Ciao Fabri, buona serata, allora buona continuazione, ci sentiamo alle prossime. Avanti Luca. Ciao Fabri, alla prossima, saluto. Ciao Luca. Ciao ciao Fabri, alle prossime dai. KK, sì Massimiliano, ho capito perfettamente quello che mi ha detto, la pulsantiera con la muro, minchia, è una rottura di scatole, lo so, no, pensavo che avevi problemi giù, c'ero anche io, avevi preparato la rastrelliera lì, insomma, pensavo che era lì il problema che non saliva l'acqua. Va bene, ma poi quella lì invece che cos'è? Gas o acqua, quella rastrelliera che c'è giù? No, quella è la centralina del bagno, capito? Vabbè, se ti si rompe un tubo di un lavandino o di un bidet, ti chiudi quel rubinetto dove va l'acqua lì e nel resto del bagno ce l'hai. La centralina funziona così, capito? Il problema è che qua, non ho compreso cosa sia successo, qua è incassata la mura la maschera, no? Quindi il tubo dove gli arriva l'acqua, che poi entra dal galleggiante, è incassato. Lascia così. Ti ho capito. Lo so, sono quei lavori fatti bene, per carità, sono belli anche da vedere, però quando hai un problema devi fasciare tutto, mattonelle, cantoni e quant'altro. Vabbè. Quindi hai risolto, hai messo a posto, e mattonelle ne hai? Sì, ho rimattonellato tutto, ho girato il corso, vabbè, 4 mattonelle alla fine sono, va. Sì, per fortuna non mi ha tenuto di scorta qualcuno e niente. Però adesso sai cosa ho fatto qua, ho fatto di metterlo con collante, balle varie, come se si ricorda, capito? Quindi cosa ho fatto? Poi gli ho fatto lo stucco nelle fughe, però quando se dovesse risuccedere qualcosa, passo la taglierina nelle mattonelle e l'ho guarito. E così da rompo di nuovo tutto. Ah sì, va bene. E io c'ho il tappo che chiude la tagliera così. Ce l'ho così. Perché era con le viti. Una volta c'è mamma, mi sa la gara a casa che andava a bucare le viti. Allora ho messo 4 punti di silicone, se dovesse capitare per chiudere il generale, o chiudere anch'io sulla cioè rattrelliera, tiro e il pavello si stacca subito immediatamente. E l'unica soluzione è quella lì. Vabbè, comunque. L'importante è che è risolto. Mi c'è rimasto qua nel canale 10? C'è Lucariello, come poi mi sa che il bombo l'ha chiuso. Tino ha chiuso, Fabrizio ha chiuso, poi non so se c'è qualcuno. Boh, io sono entrato adesso qua, capito? Quindi non so neanche chi c'era prima. Ho giusto sentito Fabrizio con Tino e Bombolo. E sono entrato a salutare tutto qua. Niente, ma c'è Luca. Io sono andato a mangiare e sono ritornato. Ciao Tony, buonasera, mi hai ascoltato. No, per favore, con me il Lucca, lo c'è qui Juventino, Massimiliano. Mi sta evitando, capito? Subito pure la battimana, avanti, Tony. Venga. Ho voluto un bel lambruschino, bello fresco, con pezzi di formaggio, ma così buono. Si sentiva che era una meraviglia. Ho capito, la sembra tutta burottosa, sì. Cosa hai detto? Ho detto, aspetta, che c'è. Ma poi la televisione fa casino. Ecco, ho abbassato il volume. Ho detto che mi sono mangiato un pezzo di peretta con un bicchiere fresco di lambruschino, era l'amore mio. Si sentiva che era una meraviglia. No, sta bene, ma a me c'è ancora quel lambrusco dello spuntino in frigo. No, l'ho comprato stasera. Ah, se no sarebbe già stato alla Le Caraibi. No, già è buono quel lambruschino che avevamo preso il giorno che abbiamo fatto quel lavoro. Buono. Avanti, Massimiliano. Ehi, a positivo, dai, saluto lì a Tonino, no, magari deve abbassare leggermente il televisore, si sente il televisore. Va bene, no, io adesso scendo giù, devo vedere un po' se è pronto qualcosa, c'è mia figlia che lo sta molto bene, io sono qua, mi sto guardando pure il TV, adesso provo a scendere nel piano di sotto, va, così faccio compagnia anche a loro. Ciao Massimo, comunque. Sì, ciao Tonino. Pagata, sì, io ti ascolto bene. No, e c'era la televisione, forse col volume troppo alto, e allora un po' di turbolenza c'era, là. Oh, Massimi! Oh, yeah. Chi è? Io sono, buonasera! Ciao, buonasera anche a te, chi sei? Pippo Franco. Mi conosci, cazzoggo? Lui, ami, ma ti ha appena fatto la doccia? Che domani non ti sei lavato, no, per la leva. No, già mi sono curato via. Sta scherzando tu. Sì, ti ho detto che sei Pippo Franco perché hai fatto la voce piccola, capì? Ho detto, non ci vi. Mi ha detto di spedirla domani perché la GLS sabato e domenica lavora. Allora spediscila. Domani mattina scende e la spedisci. Non lo so, boh, perché stanno lavorando anche il sabato e la domenica? Boh, comunque io ho spedito quella radio del 2009 di Alusai, l'ho spedito lì a Taranto, l'ho spedito di martedì, e gli è arrivato il martedì, cioè una settimana ci ha messo, in genere ci mette 4 giorni, invece ci ha messo una settimana, e quando ho chiamato lì a Leo, a quello che l'ho spedito, mi ha detto che in poche parole potevo anche dopo 4 giorni chiedere il rimborso, lo sai? Ah, ci picchia, non lo sapevo. No, 140 io che ho spedito a Vittorio praticamente ci ha messo 3 giorni ad arrivare e quando ha spedito lui in 3 giorni è arrivato. Ti ricordi che eravamo al telefono e mi aveva detto che era arrivata la tua, ha detto boh, la mia, non lo so. Mezz'ora dopo hanno suonato il campanello e mi hanno portato anche la mia. Ti ho pinto sempre il GLS, sempre il GLS, perché mi ha detto che lavoro anche sabato e domenica, quindi spedendola domani molto probabilmente ce l'ha martedì. Capito? Ce l'ha martedì. Comunque non è un problema, affetta come ho, non è che mi ha detto di spedigliela comunque lo stesso domani, non aspettare a lunedì. Almeno inizia già a spostarsi la radio, capito? E ho fatto un bel imballo. Ti ho messo anche due bottiglie di plastica, una sui lati e poi davanti c'è il polesterolo, quindi va benissimo. Sì, a voglia, va bene, avanti. Sì, sì, sì, va benissimo. Avanti, Tonino. Venga. C'era un bel discorso animato, poi toccarlo, c'ho fame, l'ho mollato tutto, nel santo mentre. Tutto qua. E quando sono arrivato qua, c'è il barattino, ma non ci sarà più nessuno, invece meno male mi ha trovato a voi. Andavo. Ok, riprendi qua. No, ma assolutamente, poi quella persona lì non voglio stare lì a bisticciare con nessuno. È entrato, ha espresso il suo parere, giustamente, e si è accettato il suo parere, no, non si bisticcia per queste cose, si bisticcia più per stronzate che per cose più serie, capito? Quindi, va bene, però non tutti siamo uguali, io posso avere un carattere e uno ne può avere un altro. Io ad esempio non mi parlo con Luca Del Monte perché sono juventino, lui è interista, siamo a scontri diretti, quindi lui si tiene le sue opinioni e io mi tengo le mie. E amici più di prima, poi se vuole parlare parla, se non vuole parlare a me, manco con l'anticamera me ne bassa. Capito Tony? Per dirti che si può avere parole per stronzate e più per cose serie. Quelle sono cose veramente serie, perché uno che disturba e mette la portante e fa girare le balle tutti i santi giorni alla gente è veramente un problema, perché siamo qua per chiacchierare, per divertirci, per dire stronzate, per dire cose serie, tu non puoi entrare ogni giorno a mettere la portante, basta, finiscila. Se poi c'è una motivazione valida, allora intervieni sulla motivazione valida e vediamo chi ha torto o ragione, punto. Avanti Massimiliano. Ehi, vai, ok, vai, vi lascio, nel frattempo mi ha chiamato Daniela, scendere giù, ma ci sentiamo domani sul coincide, se no vi auguro una buona serata, a Tonino, a Claudio e chi fosse in ascolto nel canale 10, no? Ok, va, riprendi Antonio, aspetto il finalino, poi mi stacco, va, ciao. Ehi, capo, ciao Massimiliano, ci sentiamo, dai, avanti Toni. Capo, ciao, ciao Massimiliano. Buon lunedì, salutoni, ci sentiamo alla prossima, avanti Claudio. Ciao Massimi, dai, ci aggiorniamo dopo su WhatsApp. Ok, allora, appena pensavo che era venerdì, oggi mi ha mai dato gioco in coglionito, stavo per dire domani ci prendiamo il caffè e facciamo il venerdì. Va bene, dai, già ci aggiorniamo, non problema, ciao, buona cena, saluta in casa, un bacio a Gaia. Avanti Anto. Capa, dai. Anche da parte mia, un ingegnere che fa il grano, ok? Io sto usando, anzi avevo il microfono troppo alto la verità, perché non me ne sono accorto forse come stavo spostando e facendo oggi, mi ha dovuto bugare tutti i radio, abbassare i piedi, fortunatamente la cerniera questa base mi ha fatto tuo Giulio, perché mi si è bruciata una presa proprio dove agganciava il Galaxy, sotto c'è il quadretto elettrico e quindi ho dovuto aprire tutto, smontare il quadretto, andare lì alla Elcon, comprare, perché della Ticino, comprare la presa nuova, piazzarla e poi rimontare tutte le radio, che sono baracchini praticamente, attenzione, tutti i baracchini, che sono tanti e quindi ero tutta la lì impegnata in un quadretto. E ho messo a posto perché stamattina avevo un'alternata col Galaxy allucinante, ma dico allucinante, ma mi ha mandato anche un messaggio a Giulio, non riusciva a capire dove arrivava, ho detto ma cosa va la radio se è nuova, non cioè boh, niente da fare, poi cambiando presa da una parte all'altra mi sono accorto che non lo faceva, quindi mi sono messo le cuffie piano piano. Ho dovuto fare questo lavoro, quindi lascio a perdere, se mi tracco molto mi fa male anche un po' la schiena. Avanti Tony. Ma almeno il cane l'hai portato fuori? No, no, il sciugato, 9-10 sono, è grumito. No, è uscito alle 6 con la mamma, perché alle 5 io avevo un appuntamento e sono venuti a vedere la casa. Ho già da un bel po' di tempo la casa in vendita, quindi col Covid prima non potevano, adesso pian pianino, insomma, stanno ritornando con la mascherina. No, molti, uno infatti quando mi chiamano la posso venire con, guardi, se viene da sola è preferibile, oppure massimo in due, perché a volte venivano in tre, in quattro, vi dì, mamma, mi ha rotto le batte. E quindi è il vostro appuntamento alle 5 con queste persone, una alle 5 e alle 5 e mezza. L'ha portato Ilaria alle 6, quindi non c'è bisogno di voi. Se vuoi uscire a fare la pipì, già lo butto dalla finestra e ne metto la scala. Ah, io poverino qua, io mi sono andato con il poliziotto, cavolo, ma si ricorderà portare il cane per bisogno. Dai, sveglio, belluccio qua, è così che fai fare il bisogno. Già non mi mogo io. E adesso lo porto. Adesso metto le scarpe, tanto sono ancora vestito proprio perché come sono andato via loro mi sono seduto qua, poi avevo ancora alcune cosettine da fare, dovevo montare ancora la TV, dovevo ancora passare il cavo dietro le radio che ne avevo bugato tutto, era tutto affascettato, un lavoro l'avevo fatto così, ho dovuto rifare tutto dal capo per una presa di merda, allucinante, infatti Giulio mi ha detto controlla, sicuramente è quella, e quella lì era. Ma mi davo l'alternata a Torino, praticamente le lamelle si devono essere mezzo sciolte, andavo a toccare, non ha sfiammato, capito? Andavo a toccare, fai dire e me lo portavo dentro la radio, te ne mangi, perché è 2.20 la radio, no? La presa praticamente a muro che si è mezzo sciolta. No, la presa, io c'ho un quadretto, 4 prese più 4, 8 prese, piccola e grande, no? È un quadretto della Ticino che mi ha fatto il nostro elettricista. Ed è sotto attaccata al muro, sotto la base della scrivania, capito? Quindi per andare a poterci lavorare ho dovuto togliere tutte le radio sopra la base, siccome è pieghevole la base, è a cerniera, cernierata a muro con i piedi si piegano, piegati i piedi, abbassate, ci sono messo a cambiare la presa, non è che sia un lavoro. E poi ho dovuto rimontare tutte le radio di nuovo, capito? Tutti i baracchini. Questa è una cella, ragazzi. Oh, vabbè, il quadretto abbiamo fatto anche noi così, ma grazie a Dio, sempre a cavo da 2,5, porticellato, così facevo una cosa anche alla scuola, lo siedito scientifico. Questa segretaria aveva tre ciabatte, una dietro l'altra attaccante, e sono incendiate. E ho detto, ascolti, faccio la richiesta di avere due castelletti. Io però quando lo dico, quando lo nego, lo dice lei, basta. Mi ha dato consiglio, l'ha fatto così. Me l'ha mandato a comprare il materiale per taglio, è rimasta così contenta, con la canaletta compensabile. E l'ho fatto il suo lavoro. Adesso mi sono affacciato ben 12 prese, avevo già contentissimo. Sia le B30, che sarebbero le famose succo, come voi chiamate, tedesche, che mi passo. Sì, ma sulla ciabatta, se guardi bene, tu guardi il filo che è della ciabatta, è 0,75, neanche da 1,5. E secondo quanto carichi, lo sugli, è pericolosissimo. Non si usa mai. Sempre cavo grosso, da 2,5. Cazzo, non mi sono spiegato, sei anche elettricista, tutti io ciabatta non ne ho, io non mangio ciabatte. Io ho il quadretto a muro della Ticino da 2,5, si è bruciata, è andata in corto una delle prese, ce ne sono 8, 4 sopra e 4 sotto, piccoli e grandi. Ok, una di quelle è andata in corto, non so il perché, tanto è vero che ho mandato anche la foto a chi me l'ha costruito, a chi me l'ha fatto, e mi ha detto impossibile, allora c'è un carico troppo alto. Io col tessere ho provato l'ingresso delle prese, sono tutte 2,17, 2,18, 2,19, addirittura 2,16, quindi non c'è nessun carico assolutamente, poi c'è il volmetro, quindi segna bene. Non lo so, forse è una presa difettosa perché il quadro della Ticino, tanto è vero sono andato alla Elcom a comprare nuovamente la presa per poterla incassare, sono quelle piccole e grandi a incasso, già hai capito, non ti devo insegnare nulla. E mi ha detto, strano, infatti me l'ha, perché gliel'ho portata, ed è leggermente annerita, proprio dove c'è il ponte, capito, il quadro è tutto a 2,5, i cavi che ci sono tutti a 2,5, questa casa è stata tutta ripristinata a norma, perché quando è stata comprata hanno voluto come si dice, la conformità, quindi non è così, capito Tonino? Purtroppo mi ha detto con l'elco, può darsi pure che sia una presa difettosa, comunque me l'ha data nuova e ti dico che me l'ha fatta manco bagà, perciò. Sì, ma io ho capito. Io ti ho parlato di quello che è successo al Zieri, capito, delle ciabatte. E mi riferivo anche se c'è qualcuno in ascolto che non ci metta una ciabatta. Era per far capire a altre persone che, capito, che la ciabatta non serve a nulla. Serve una bajou, ecco, va bene la bajou. Perché se noi facciamo il conto delle prese che mettiamo, degli apparati, facciamo il conto praticamente quanto watt c'ha, non so, 9000 diviso 220, sai quanto ampere ci deve andare. Con la pizza ferromitica ti accorgi già quanto c'è assorbimento, capito? Quindi io lo so che tu ce l'hai fatto come si deve, io mi riferivo a altre cose per ciò che è successo. Tutto qua, ok, audio. Avrà sfiammato senz'altro e quindi succede, molte prese, sembra non funziona mai niente, poi infine funziona male, l'apri e lo devi cambiare perché ha sfiammato, non fa più contatto, perché la mela dentro si anniviscono e tira quella polverina che non ti fa più contatto. Ci conferma, così mi ha detto pure lei, ecco la stessa cosa. Va bene, dai, io mi stacco un attimo e scendo, non ho manco cenato ancora, figurati, ho finito prima di entrare Fabrizio, boh, che ora era, di mettere a posto qua. Mi ho collegato anche la TV di nuovo, però devo fascettare di nuovo tutti i cavi perché non voglio vedere niente per terra e niente attaccato ai muri. Siccome c'è la canaletta sotto il battiscopa, ho fatto passare tutto lì dentro e ciccia. Dai, io mi allontano un attimo dalla radio, vado a portare il cane, come ha detto Tonino, vai, fare la pipì. Oh, Anto, riprendi tu, già ci sentiamo dopo quando risalgo, ok? Aspetta, oh Claudio. Oh, yeah. Se vuoi qualche fascetta ce l'ho io, mi. E la mazza te ne varia, una ne hai fascetta, tutti i misuri vai tu. No, tanto mi ci vuoi fascetta, mastro solante. K. Ok, dai, porta il cane, dai. Ci sentiamo solo dopo, Claudio. Io già sono qua. Davanti a te. Ciao, Cla, ci sentiamo. Ciao, Togliari, ci sentiamo dopo, dai, che vado a portare il cane e poi già sono nuovamente qua in stanza che devo finire di mettere a posto, ok? A dopo, ciao. Ciao Cla. Allora, può capitare comunque che chi ti gode sia sempre in tensione, chi ti brucia che cosa può sempre capitare, può. Vabbè, può succedere, perché no? A chiunque succede, a chiunque. Io sono in mezzo, quindi nelle scuole, io lavoro in tutte le scuole superiori, quindi capirai, abbiamo 64 scuole sulla provincia di Sassari e in 23 anni ne ho visto, per carità. Beh, sono sempre cose in tensione, sono, può capitare che si bruci un qualcosa negli anni. Oh, cavolo, chi si invece resisti nei piedi chi si nuove me, molte volte queste prese qua, queste cose, ci sono prese che hanno 30-40 anni, non si sono mai sciolte. Dipende, io ho fatto, guarda, un impianto elettrico a mio cognato, dall'A alla Z, un impianto elettrico a mio suocero, un impianto elettrico a mio zio, a due zii. Ma ti dirò, guarda, sono passati roba di 28 anni, 30 anni. Ma non vi successo nulla ancora, se no, così muore di ucci. Ma guarda che dopo 20 anni bisogna cambiare di nuovo i capi, E a me di tutto me, l'avevo così. Andava bene, ho fatto l'impianto con le contropalle. Scappa, quando il pianto è fatto buono dura 30-40 anni, non rifazzi niente, non rifazzi, no. Non è così, no. I cavolo, c'è l'impianto del latte dolce, c'è quello fatto, c'è, dove è a casa di babbo, da quando è nato, 50 anni, da quando è nata la casa c'è quell'impianto, ma è stato fatto nulla a me, sempre andente, con quei fili rigidi di una volta, te lo ricordi? Quelli semi piombati. Sta facendo un po' di, allora sappi una cosa, che qualsiasi cavo nifugo dopo 20 anni bisogna sempre cambiare, capito? Rumore mi sto provando appresso? Sì, cosa sta succedendo, Tony? Thank you. facendo la batteria, no? Eccomi qua. Sicuramente se ne andando la batteria. Ce lo fa bene con la batteria. Scappa, prova a cambiarla. Sicuramente sta. Cioè, sta andando. Penso che già ce l'ha qualcuna. Non so che c'è la batteria è trova. Oh, la capricina, qua. Niente, poco fa. No, sto stavo soltanto, poi insomma, questa pensiera poco è rimasto. Alla fine questa cosa dura lunga, ho sette baracchie, ho stato vento e mi sono mangiato un bel pezzo di formaggio per essa, bella morbida, con un bel bicchiotto di vino, una bruschina, aspetta. Sì. Io ne devo attaccare una, la gioco un par ad una e la devo attaccare. E di cosa, di. Come si dice? Ma. Di bene tutti, Sono tutte buonine. Scappa. Agita. E dove era il cellulare, sa? Lì. Ah. Schiavo il cellulare. Agita, che ve lo tocco. No. Eia, mi ci sei? Sempre. Gabba. E quindi, è così, E di un dire chissà beretta? Ah, buon lo gioco, sa che lo userà. No, la mia è che sai bene tutti, Poi ne vado a perfugarsi, ne vado a... Ancora poi chi sa di battata che è un bel buona. Anche a Tisi la fanno buona. Sì. Aspetta, la giubilato la ricotta muschia che c'è di Tisi. Ne va sì che ti farà dorusare i Trento, non se ne potia mangiare, saridda. Ho tolto la batteria ed è ottima, forte, abbastanza buona. Aveva leggermente un po' di ossido al polo positivo. Adesso voglio provare a vedere come va. Perché io faccio un coso, faccio. Quanti si dite? Faccio lo... chi sa fare, non lo tester, c'è anche il tester, ma faccio chi sa fare proprio quei rubboni. Me l'ha fatto, me l'ha regalato Antonello, da Fusaro. Rubone, dai, ti misura la batteria, se è piena, se è bionda. Funziona per me. Guarda, adesso c'è quel rumore. Negativo, era bisogno di tensione. No, non facevo contatto bene la batteria, c'era un po' di ossido nel polo caldo, capito, del microfono. L'attacco di quelle batterie 9 volt quadrate. L'ho pulito bene e l'ho messa. Scappa. Adesso già va bene. Aspetta che commuto il baracchino, commetto l'altra radio, dai, un attimino. Mi aspetti un attimo. Già sono qua, non ti preoccupare. Tanto mi metto le ciabatte, bene. Eccomi. E ci ha preso il tappo ginocchi. Senza luce celestiale, che. Sì. 1-1. Si muove appena. Già va bene. Certo, non ci arriverò di segnale forte come poco fa, però già va bene, dai. Già va bene, tutto quello che finisce bene. A chi te l'abbiamo rifusa e te la temo vista. Mi sa che mi preparo per andare a letto, faccio prima e poi riprendo. Paolo, preparati, dai, non c'è nessun problema. Preparati. Poi quando è mi avvisi, ok? Bene, ti chiamo, allora non grande c'è già qua. Adesso che no, che. Dai, faccio in fretta io. Via. Ok. Qui c'è un brigato. Sì, casa gatto. Ho fatto anche due masse, penso a darla buonanotte. Capo, hai fatto bene. Non solo mi sono messo in tenuta sportiva per il letto. Tutta del buio. E c'ho il pigiamotto. Pure ora, giuro il pigiama. Mi metto il pigiama la notte. Beh, non è proprio il pigiama, è una tutina che uso, che in pai, capito? Pantalone e giacchino. Ciao. già va bene già. No, io c'ho proprio il pigiama c'ho. Quando vengo qua. Oh, quest'anno questo soffrendo. Perché è una casa calda, praticamente quando questa casa l'ha rifatta lui, il proprietario, gli ha fatto i muri, come si dice, come li fanno adesso, no, d'inverno non c'è freddo, vabbè che è piccola, però l'altra eravamo piccola lo stesso, ma soffrivamo il freddo, questa casa il freddo non è sopra. Assolutamente. Gli ha fatto il doppio muro con quei sistemi che si stanno usando adesso. Quello si chiama il cappotto. Cioè, dipende chi mette la cosa, un polistirolo in mezzo tra una parete e l'altra, chi mette la di roccia, insomma. Si chiama cappotto. Ho visto stasera un'antenna, non so di chi è. Stavo scendendo al centro storico via La Marmora. Quando sono arrivato all'altezza di via San Donato, verso giù, all'altezza di via Moscatello, sopra c'è ho visto un'antenna, un stiro centrale, lungo. Via La Marmora, via Moscatello. No, qua si vede da cosa, da... la mia antenna si vede da lì, da via Largo Moe che Cappuccine, capito? No, questo è via La Marmora, si vede. C'è in quel palazzo che fa angolo, via La Marmora, via Moscatello, capito? Tu guardi in alto e vedi che il suo stiro alto, segreto. Cappa. No, la mia si vede da lì, si vede. Però non so se magari da quella via... No, ma non è possibile. Comunque io, cioè, la mia si vede da lì. Al Giondi si vede, la vedi tu, beh. Guarda qua, piazza Colonna Mariana. Da lì dove, cos'è il Capurube, chi dà tra via. Non dico la palestra. Da lì si vede bene. Cioè, praticamente nella discesa che scende giù. Ho capito. Verso le monete che è lì. Da lì si vede bene, in quella... come scendi un pochettino. C'è quella piazzetta, c'è quel coso dove portano i cani anche. C'è un... non una piazzetta, no, un coso pieno di erba. Da in chi vi dura vedi bebe. A me si vedo che sei in via Carso. Non sono in via Carso. Beh, se mi giro ex e poi piccio toscano, dai. Quindi. No, a volte ci passo là io. Ma deve essere di un altro, qualcuno che ha dismesso, forse ho capito dove l'hai vista su quelle antenne. In via Marmora, giù, anche il mio scatello, quel palazzo, che sotto c'è un ciclo in bianco e nero, Sì, ho capito. Cioè, il baracchino, una 50 ridonda, che sia uno stilo molto lungo, capito? Sì, ma no... non è la mia quella, no. L'ho vista pure io, l'ho vista lì. C'è da parecchio. Ora se non trasmette anche più. Sicuramente, un bel antenne sono in chivi, femme. Vabbè, è vero, non è entrato nessuno. Adesso senta qualcuno dopo. Attenzione Ricchi il porco. Non ne hanno voglia. Una negana, non male. Sicuramente. Sì, pari minore, cioè, pari minoretta, ma non è piccolina, no. Quando la giubbia è stata in un gedrento, ci ho dovuto mettere. Occupava tutta la casa. Poi la pipina l'ho dovuta mettere nel cernaio perché era grande, è grande, cavolo. Io sto aspettando che mi sento meglio, con la ferita che ho, e poi mi faccio anche un dipolo qua fuori. Vero? Eh sì, il posto ce l'ho, ne ho un bel pure. Ma non un dipolo di un quarto d'onda, di mezz'onda. Un dipolo grande. 5,50 metri. Sì, la voglia che va bene. Ma non lo utilizzi per la per la 27, non utilizzi per la 3 banda, cosa fai? No, per la 27.